Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone. Un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda. Io sono Steven Forti e questo è Zibaldone, un programma in italiano, non solo per italiani, in onda tutti i venerdì o quasi su Radio Contrabanda qui a Barcellona, una storica radio libera barcellonese, lo sapete, ci trovate più o meno sui 91.4 FM a Barcellona, più o meno in streaming dalla web di Contrabanda e quello sì sicuramente dal nostro podcast scaricandovi dal nostro blog, scusate, scaricandovi i podcast dello Zibaldone. Dicevo che, insomma, a volte ci trovate, a volte noi siamo un po' così, non tutti i venerdì, perché abbiamo avuto, stiamo avendo ancora qualche problema tecnico con Radio Contrabanda e quindi ultimamente Zibaldone non è andato in onda come al solito. Speriamo che i problemi si risolvano presto. Noi nel frattempo continuiamo o cerchiamo di tenere la barra dritta e quest'oggi torniamo a bomba dopo la Semana Santa, dopo la Pasqua, con un programma ricco di musica, ricco di ospiti, di canzoni di ieri e canzoni di oggi. E cominciamo subito con questo brano che è di ieri ma è reinterpretato adesso. Sentitevelo qua, che è bellissimo. I saw the truth hang out from the door. And I'm all set face to face. And I'm all there, gotta get up, clean the place. Flowers grew and sunshine still. Now darker than the deepest sea. Just send me down, give me a place to be. forse l'avete riconosciuta, la voce era quella di Manuel Agnelli, una canzone di Nick Drake da quel meraviglioso disco che è Pink Moon, di cui si sono compiuti da poco i 50 anni dalla sua uscita, l'ultimo disco di questo grandissimo cantautore Nick Drake, scomparso proprio l'anno successivo, nel 1973, questo disco è uscito nel 72 e è stato ora riproposto da Rodrigo D'Erasmo e Roberto Angelini, che si sono fatti accompagnare anche da alcuni amici come appunto Manuel Agnelli, ma ci sono anche altri amici, ne parleremo, però prima voglio dare il bentornato al nostro ergonomico più che mai Banzo, Enrico Banzola. Come stai, Banzo? Come vanno le cose? Bentornato, Steven. Lo so che di solito diciamo il contrario, però effettivamente con tutti i problemini, i problemetti, ecco, mi viene quasi da darti il benvenuto, anche se di solito facciamo il contrario, perché questo ritorno è molto gradito. Mancavamo da un po', però insomma adesso rimaniamo qui dove siamo, non solo per queste due ore, ma anche i prossimi venerdì. Incrociamo le dita, ovviamente. Anche quelle dei piedi, la percezione psicologica è, diciamo, diversa dal tempo reale. Infatti a me sembra che il programma non vada in onda da moltissimo tempo. Non ho controllato il nostro blog perché è una sensazione un po' spaventosa. Comunque, tu come sai, Steven, io sono qui per mettere i puntini sulle I e anche sulle Y a volte se necessario, e infatti ti correggo perché Nick Drake è scomparso nel 1974. Hai ragione. Due anni dopo l'uscita di Pink Moon, ovviamente. Hai ragione. È proprio così. Noi però vi proponiamo questo omaggio a Nick Drake perché il disco di Angelini ed Erasmo è uscito da pochissimo, invece. È uscito proprio per ricordare Nick Drake ai 50 anni dall'uscita di Pink Moon. È un disco molto bello dove ripropongono anche molto fedelmente a volte le canzoni di Nick Drake, ed è un disco che in realtà loro si portano dietro da tanto tempo, da una quindicina d'anni, quando avevano cominciato già a suonare in giro per l'Italia i brani di Nick Drake, e poi avevano partecipato alle riprese del documentario prodotto da Sky Arte e girato da Giorgio Testi, proprio sull'esperienza di questo tour e la figura di Nick Drake. Quindi insomma in effetti, Steven, sì. Il precedente è il disco Pong Moon sul Nick Drake, uscito nel 2005. Bravissimo. Che però aveva una scaletta diversa. In effetti non c'era per esempio la Place to Be che abbiamo appena sentito, che se me lo chiedi, non me lo stai chiedendo, è il mio pezzo preferito di Pink Moon. Potrei anche sostenere la controprova di ascoltare il disco intero. No, direi non è facile però scegliere qual è il pezzo più bello di quell'album, È difficilissimo, ma sono molto convinto su Place to Be. Sì, è molto bella questa canzone, ma in realtà tutte. E tra l'altro è un disco che poi insomma è stato registrato anche in diverse parti, non solo dell'Italia, ma anche dell'Europa, perché sono andati anche ad Alcester, nel Regno Unito, molto vicino alla casa dove aveva vissuto Nick Drake, per registrare alcune canzoni come la Pink Moon e Now, insieme a John Wood era stato il produttore storico di Nick Drake. Insomma, è un album ricco di chicche per degli amanti di Nick Drake, ma anche per chi magari, insomma, Banzo, si vuole avvicinare a questo cantautore nel caso in cui ancora non lo conosca. Beh, io in questo caso suggerirei sempre l'approccio diretto, però le cover sono effettivamente di ottima qualità e forse è più... personalmente lo trovo più adatto agli amanti che vogliono appunto godere di una reinterpretazione, perché anche questo fa parte del fascino della musica, vedere come brani storici vengono resi dalle mani di altri artisti, e comunque dicevo altri artisti al plurale, non solo perché Angelini ed Erasmo sono due, ma è perché il disco è collaborativo. E infatti, appunto, abbiamo visto l'ospitata di Manuel Agnelli alla voce, e il titolo dell'album è Songs in a Conversation, che è abbastanza esplicativo. Eh sì, tra l'altro oltre a Manuel Agnelli ci sono anche Adele Nigro, di Any Other, Pier Sfaccini, Andrea Appino e anche Niccolò Fabi. E appunto ci andiamo ad ascoltare la canzone che chiude il disco, che è Saturday Sun, tra l'altro molto bella, registrata insieme a Niccolò Fabi. E la cosa anche interessante è che sono andati a casa di questi artisti per registrare, artisti ed amici, per registrare queste canzoni. Quindi sono andati a cercare un luogo dove loro si possono trovare a proprio agio. E infatti sono delle registrazioni, come abbiamo sentito anche nel caso del brano Place to Be, che sono molto intime. E lo sentirete anche nel caso di Saturday Sun, dove D'Erasmo e Angelini sono accompagnati da Niccolò Fabi alla voce. Eccola qui, questa bellissima canzone di Nick Drake. Saturday Sun, Niccolò Fabi alla voce, Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo con lui in questa bellissima versione di Nick Drake, tratta da Pink Moon, 1972-2022, 50 anni. Banzo, a me piacerebbe domandare a Niccolò, a Rodrigo o a Roberto Angelini se il gallo che abbiamo ascoltato due volte all'inizio della canzone è stato casuale, perché si trovano a casa, immagino, di Niccolò Fabi, e probabilmente in campagna, da quello che immagino, oppure insomma sia stato voluto mettere lì, visto che il titolo della canzone era Saturday Sun e ci stava bene. Non lo so, è una domanda che fino a che non avremo opportunità di intervistare gli interessati non avrà risposta, però devo dire, trovo che sia un'aggiunta, volontaria o involontaria che sia, ottima. Io personalmente sono un cultore dei field recordings e sono a favore dell'inserimento di suoni d'ambiente anche nella musica, diciamo, più suonata, più composta, più orientata verso il formato canzone. Quindi l'apparizione del gallo mi ha suscitato un sorriso spontaneo. Concordo, concordo, Banzo. E noi adesso, visto che la puntata di oggi è dedicata alle canzoni di ieri, alle canzoni di oggi, continuiamo stando a metà tra il passato e il presente, perché ci andiamo ad ascoltare un brano di Enzo Del Re, riproposto da Vito 40 in arte Fortito, che tra poco ci accompagnerà e ci racconterà un po' di questo progetto. Un brano anche questo dell'inizio degli anni 70, del 73 esattamente, quindi più o meno come il disco di Nick Drake ci siamo ascoltati. Il disco di Vito 40 è uscito proprio il mese scorso, a marzo di questo 2022. Il brano si intitola I Manifest, ma poi insomma ce ne parlerò. Era Vito 40. I Manifest, una canzone storica, mitica, del grande Enzo Del Re, che ci ha lasciato una decina d'anni fa, nella versione però di Fortito, che ci accompagna quest'oggi qui a Zibaldone, ci parla di questo progetto, questa rilettura di Enzo Del Re, questo omaggio a un grandissimo della canzone e della cultura italiana, che come dicevo ci ha lasciato ormai da già 10 anni, passa, vola il tempo. Un disco molto bello, perché tra l'altro recupera un Enzo Del Re che molti ancora non conoscono, ma insomma qui mi fermo e innanzitutto do il benvenuto a Fortito, che ci accompagna. Benvenuto a Zibaldone, è un piacere averti con noi. Grazie a te, Steve, e un buon pomeriggio a tutti. Ascolta, cominciamo subito con una domanda, guarda, che sarà ovvia, ti sarai anche stufato di rispondere, ma Fortito è il tuo nome artistico, dici sì. Da dove nasce? Senti, nasce da un errore. Forti, come tu sai, si scrive con T-Y e basta. Invece, per scrivere una mail, un mio amico insisteva a scrivere col TH. Ecco, TH significa forte, andare avanti. E poi ho lasciato così perché mi piaceva quell'idea di guardare avanti, andare oltre, con quella Y che si sdoppia come un ideogramma in una V e una I, come se fosse Vito, appunto. Abbiamo lavorato in fantasia. E tra l'altro, insomma, anche vedi, appunto, tu il tuo nome è Vito 40, quindi giochi con il tuo nome e il tuo cognome, ecco. Esatto, è tutto concentrato in quello pseudonimo. Benissimo. Ascolta, passiamo invece a parlare di Enzo Del Re, di questo progetto, perché insomma tu sei conterraneo di Enzo Del Re e questo anche ti ha facilitato una cosa che immagino i nostri ascoltatori ascoltando questa canzone hanno subito colto, che è un album, insomma, per una persona che non è di Mola di Bari o come minimo pugliese è un po' difficile da interpretare Enzo Del Re. Beh, certo, sì, sicuramente. Sì, io sono, siamo compaesani, quindi io sono nato con la sua musica e da piccolo già suonavo alla sua maniera, però senza comprendere assolutamente il significato profondo di tutto il suo lavoro, così dalle feste che facevamo sul terrazzo da adolescenti, quindi lo scimmiotavo, ecco. Quindi io è nata questa passione, questa sua voce, ecco, posso dire, mantra, quasi potrei dire, che insomma con l'accompagnamento della sedia, che insomma non è un vezzo come spero insomma qualcuno sappia, ma nasce da una necessità di carattere proprio politico, cioè quella di dal momento stesso in cui lui viene a sapere della morte di Sacco e Vanzetti, appunto, sulla sedia elettrica, da quel momento stesso lui decide di usare la sedia non più come strumento di morte, ma come strumento di vita, e quindi la vita attraverso la musica. Questa infatti è una cosa bellissima, hai fatto bene a ricordarla. E tu hai scelto il disco di esordio da solista di Enzo Del Re, era il 1973, e insomma anche nella canzone che ci siamo appena ascoltati, Manifeste, insomma si coglie quel periodo storico, quel momento sociale e politico che tanto ha voluto dire proprio anche per Enzo Del Re. Un disco che si intitolava Voce e Ritmi, però che in realtà sì, dai più era conosciuto con il titolo della canzone che aveva a che fare proprio con la città, con la vostra città, la tua, esatto, e quella di Enzo Del Re, sì. Mola di Bari, certo. Pronunciato però Maul, no? Maul. Sì, è Maul, e con la E che si stringe quella, appunto, con la Shva, no? Quindi Maul con la E che si chiude, insomma, e si legge in quella maniera. Ascolta, come mai hai scelto proprio questo disco di Enzo Del Re? Come ti dicevo, Steven, è un disco che mi appartiene profondamente. Innanzitutto è pieno di rimandi alla mia infanzia, e lui anche come primo approccio agli aspetti discografici, dopo la grande esperienza che aveva avuto con il teatro, sì, decide di fare questo recupero di detti, proverbi, storie, dell'oralità popolare, e quindi di metterli in musica, oltre chiaramente a dei brani che lui già aveva composto precedentemente, tra i quali il mitico Scitra, che insomma è un brano che insomma in molti conoscono a prescindere. Quindi per me è stato innanzitutto un fatto normale il fatto di prendere in esame esclusivamente questo disco, anche per recuperare appunto l'aspetto del dialetto, ecco. E infatti questo è un tema, io credo, molto interessante, come lo è tra l'altro anche il discorso che tu prima parlavi giustamente della sedia, no? La sedia che, insomma, sì, quando uno pensa a Enzo Del Re, e lo ricorda forse anche in una delle ultime apparizioni, quando Capossela lo volle con sé al concerto del primo, esatto, maggio, ormai una dozzina, quindicina d'anni fa, adesso non ricordo esattamente che anno fosse. Sì, il 2010, l'anno prima che morisse. 12 anni fa ormai. ovviamente Enzo Del Re suonava in quella maniera, arrangiava le canzoni in quella maniera. Ecco, certo, il tuo certo. disco ovviamente invece hai dovuto lavorare anche su questo approccio dal punto di vista dell'arrangiamento musicale. Assolutamente, l'idea era quella di in un certo senso rendere fruibile, più fruibile, ma senza snaturare l'identità di Enzo e l'identità di tutti i brani. È stato un lavoro molto complesso perché in un certo senso mi sono dovuto mettere addosso circa 50 anni di musica per cercare di essere veramente più onesti possibili per gli arrangiamenti. Quindi sono partito anche da un ensemble che lui poteva conoscere, perché lui prima della, diciamo così, della consapevolezza della sedia, lui suonava normalmente degli strumenti, ha preso anche lezioni di musica, suonava il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra, quindi in un certo senso ho rispolverato l'idea di un ensemble che lui poteva anche conoscere, quindi chitarra, voce, percussioni, e ho aggiunto soltanto il contrabbasso, ma voglio dire, ci sta tutto. Ascolta, noi abbiamo aperto prima con la canzone che apre anche il disco, il tuo disco e il disco di Enzo, no? I Manifesti, sì. Che è una canzone, certo, insomma, che ci riporta completamente a quegli anni, agli anni al lungo 68. Com'è ora rileggere quelle canzoni, reinterpretarle, visto che il mondo, la politica, i movimenti sociali sono cambiati così tanto, in Italia non solo? Ma guarda, Steven, per quello che mi riguarda sono così, il linguaggio che lui ha usato e i temi che ci sono così universali, che sembra che niente sia cambiato e praticamente sembra che tutto è rimasto lo stesso, e quindi è tutto fortemente attuale quello che troviamo in questi testi. Eh sì, come d'altro canto anche, insomma, il famoso lavorare con lentezza, no? Che forse esatto, è esatto. Il brano più conosciuto di Enzo, no? Beh, se tu pensi, perdonami Steven, se nell'organizzazione nuova che è praticamente questo brano, questa melodia che deriva dalle mondine dei primi del Novecento, appunto, che Domenico Modugno ha rifatto come Amara Terra Mia, lui l'ha scritto come l'organizzazione nuova, quindi è un brano sugli aspetti dei flussi migratori. A un certo punto c'è una frase, quindi nel 73, dove lui dice, lo dico direttamente in italiano, così facciamo prima, faremo come i cinesi, da questo inferno faremo il paradiso. Quindi ci aveva visto un po' lungo il signore, quindi voglio dire, stiamo parlando degli anni 70, forse magari chiaramente si respirava già quel tipo di idea, però insomma questa cosa è molto molto interessante. Andiamo ad ascoltarci un secondo brano, è proprio quello che dà il titolo anche al tuo disco, Maul, e poi magari diciamo qualcosa al riguardo insieme a te dopo aver ascoltato la canzone. Certo. Paese me, notte a richiederti. Questa era Maul, lui è Fortito e canta Enzo Del Re, questa canzone che appunto insomma riguarda Mola di Bari, la città di Enzo, la tua città Fortito, e una canzone che comparata anche con l'altra è molto più intima, molto più dolce per così dire. Sì, l'idea era di mettersi qualcosa di estremamente evocativo, un luogo, non luogo praticamente, perché insomma in quella canzone lui è estremamente duro con il suo paese, e quindi ho cercato di creare una dimensione, un'atmosfera che spesso, diciamo, soprattutto per gli artisti, appunto, ripeto, i luoghi nativi sono sempre quelli molto difficili, e l'idea è stata proprio questa, cioè di creare una dimensione sonora che fosse in un certo senso densa, ma che non lasciasse in un certo senso trasparire quell'amarezza che poi per molti anni lo ha accompagnato. Ascolta, Enzo Del Re ha passato gran parte della sua vita a Mola di Bari, no? Sì. Com'è ricordato ora lì a Mola di Bari Enzo Del Re? È diciamo una figura mitica, una figura ormai anche ricordata alle istituzioni, o purtroppo è stato un po' dimenticato? E purtroppo, insomma, questo lavoro spero che finalmente gli faccia in un certo senso godere quel giusto riconoscimento che gli è dovuto. Quando poi lui è tornato qui, spesso per molti anni è stato completamente dimenticato e anche un po' così irriso, perché insomma era una persona complessa, non difficile, ma voglio dire che aveva un carattere tutto suo, diciamo, no? Certo, molto forte, molto forte, ma un'idea della vita, ma un grande rispetto verso tutti. Quindi diciamo che la volontà è quella di veramente, come ho detto prima, di far recuperare un'integrità, diciamo così, che artistica soprattutto, perché su quella morale non c'è, non c'è dubbio. Integerrimo era Enzo. Esatto, lì è dovuta completamente. Eh sì, no, una figura davvero, la sua coerenza anche dal punto di vista sociale, politico, etico è davvero incredibile. Certo. Nel book, per esempio, c'è una testimonianza di Patrizio Fariselli dell'Area che è a dir poco incredibile, dove praticamente in un festival che incontrarono Enzo e l'Area gli proposero di aprire tutti i concerti che dovevano fare in estate. Lui ci pensò un po', ma dopo disse: guarda, mi spiace, non posso, ho da andare a suonare per gli universitari lì, ho da fare lo sciopero dell'acquedotto lì, aveva da fare, e il suo impegno era più importante di qualsiasi altra cosa. Sì, no, è incredibile. Hai fatto bene a ricordare anche il testo di Patrizio Fariselli, perché ricordo che questo disco, intitolato Fortito rilegge Maul di Enzo Del Re, è uscito per i tipi di Squilibri Editori, una casa editrice, un'etichetta discografica che fa delle cose meravigliose, e sono bellissime soprattutto anche dal punto di vista fisico, come un oggetto davvero prezioso. E quindi oltre al CD ci sono degli scritti, quello di Patrizio Fariselli e un altro di Eugenio Bennato, ma poi ci sono tante altre cose molto belle dentro questi libri CD book, no? Sì, esatto. Noi andiamo ad ascoltarci un terzo brano di questo tuo disco, e mi piacerebbe ce lo introducessi tu. La canzone si intitola I Prete. I Prete, perdonami se ti... Tu devi correggermi assolutamente. Sì, certo. Senti, questo è un brano praticamente dove si parla, dove in Puglia, dove i contadini sono costretti insomma a rompere gli strati rocciosi per far affiorare la terra coltivabile. È un'operazione molto faticosa, e il materiale che viene, appunto, di risulta, viene usato per costruire appunto i muretti a secco. E invece Del Re, attraverso questa rilettura, auspica che un diverso uso delle pietre, invece di fare i muretti a secco, lui si auspica di fare una rivoluzione, insomma. Andiamocela a sentire, poi ritorniamo ancora qui con te per continuare questa intervista e questa chiacchierata. Perfetto, grazie. Tremate in alli traite, offenate parite, tremate in alli preta vedavne, vive metta con bene. Vive fenata rocchie, cremate in allipre da vedavne, affernuta cuccagne, più nessuna ne freak, affernuta cuccagne, più nessuna ne sparte, non s'attacca di un ciocciato de su padre. ritorniamo qui in diretta su Radio Contrabanda con Fortito per parlare di Enzo Del Re, per parlare soprattutto di questo disco in cui Fortito rilegge Maul di Enzo Del Re, il suo primo disco da solista era il 1973, Voce Ritmi in realtà era il titolo originale di questo disco, più conosciuto però come Maul per la canzone omonima che ci siamo proprio sentiti poc'anzi. Ascolta Vito, una questione che ti volevo domandare, ma tu Enzo Del Re l'hai conosciuto in persona? Avete avuto un rapporto nei decenni passati? Certo, certo Steven, in verità questo lavoro viene da molto lontano, perché i primi anni 90, credo fosse il 93-94, o giù di lì comunque, io lo andai a incontrare perché avevo già in mente di rileggere completamente questo lavoro, potendolo però integrare nell'ensemble. Quindi lo andai a trovare dove lui insomma vendeva le cassette, insomma ci fu una bella chiacchierata, lui come al solito all'inizio sempre un po' restio a donarsi, ma poi alla fine insomma riuscì a far breccia, infatti mi disse che aveva saputo di me, che aveva stima di me, insomma questo fu molto bello, devo essere sincero. Però del fatto di dover suonare nell'ensemble lui non era assolutamente interessato. Onestamente col senno del poi credo sia stata una cosa giustissima, anche perché sarebbe stato molto difficile, perché lui comunque aveva una sua metrica, aveva una sua dimensione che poteva solo svolgere da solo. Ricordiamoci che era anche un corpofonista, quindi suonava il corpo, schioccava con la bocca, faceva venire fuori dei suoni, e quindi aveva tutta una sua idea di portare avanti un brano. Poi questa cosa insomma pian piano io l'ho abbandonata, ma poi l'ho ripresa completamente poco prima che lui morisse. Poi lui purtroppo è morto, e da allora questa cosa veramente non mi ha mai abbandonato. Un progetto che ti porti dietro da tutta la vita, insomma. Sì, ma è stato molto difficile poterlo poi attuare, poi finalmente grazie a Luciano Perrone, che è il partner praticamente in questa operazione, siamo riusciti veramente a portarlo a termine. Ah, beh, questo è molto bello, è un bellissimo risultato alla fine, davvero, insomma se ne saranno resi conto anche i nostri ascoltatori. Ascolta, me lo auguro. Sicuramente, un aneddoto così che ti volevo chiedere, insomma Enzo Del Re è famoso, come dicevamo, anche per il suo carattere, per essere integerrimo, per essere stato più che coerente artisticamente ed eticamente nella sua vita, ma poi anche perché era un personaggio particolare, la questione della sedia evidentemente dal punto di vista artistico e sonoro, poi anche per il suo basco rosso che sempre indossava. Certo. Ma a me Timisso Arapinto, che scrisse questo bel libro su Enzo Del Re qualche anno fa, che venne in radio qui da noi a Barcellona anche a presentarlo, mi raccontò un aneddoto che lui mangiava quasi solamente polipo. Tu mi confermi questa cosa? sì, vabbè, è una cosa che insomma lui mangiava il riso e il polpo erano i suoi piatti preferiti, diciamo. Diceva che praticamente se non c'era il polipo lui praticamente non si sedeva a mangiare, qualcosa così. Sì, mi diceva. Sì, aveva questa preferenza, ecco, diciamo così. È vero. Beh, un grandissimo personaggio. Approfitto per consigliare il libro di Timisso Arapinto, perché è un libro molto completo. Certo. Che tra l'altro pubblicato da Squilibri, e che raccoglie due CD con gran parte delle canzoni di Enzo Del Re, quindi molte sono difficili al giorno d'oggi da trovare, e quindi è un bel documento, oltre alla biografia, che si associa molto bene al tuo libro e che ci permette appunto di riscoprire una figura che io credo importantissima tutt'oggi. Assolutamente, è proprio questo, l'intenzione di questo progetto è proprio questa, hai detto giustamente. Ascolta, noi ci salutiamo Vito con un'ultima canzone, ce ne sarebbero tante che potremmo scegliere da questo tuo disco. A me è piaciuta molto Mara Luisa, non so se lo pronuncio bene. Maria Luisa praticamente sarebbe. Ce la vuoi presentare tu? Sì, praticamente è la classica storia qua è praticamente il soggetto è un muratore che non fa altro che lavorare, e mentre la sua donna, appunto Mara Luisa, lo aspetta sempre a casa. Lui torna a casa stanco la sera e non può dedicargli del tempo, e tantomeno non sapranno mai quando praticamente potranno acquistare una casa, perché il padrone li sfrutta, ecco, praticamente. Allora noi ci salutiamo con questo brano tratto dal tuo disco Fortito rilegge Maul di Enzo Del Re, uscito per Squilibri lo scorso mese di marzo. Vito 40, Fortito, grazie davvero di essere stato con noi. Grazie a te Steven, sono gentilissimo per il tuo invito, e grazie a tutti voi. Alla prossima. Alla prossima, in bocca al lupo con questo progetto. Andiamo ad ascoltarci quest'ultima canzone, Fortito rilegge Enzo Del Re, Mara Luisa. Ci tengo da fe, Mara Luisa, tu m'aspetti, che quando scappa l'aise, da chi avvene a pochie. Mara Luisa, tesoro me, sta che fate che non posso venire. Fate che non posso venire, e a chia pacienza nata menzaura, Mara Luisa, quanta si daure, e a chia tromba calce di metà mattinata. Ci tengo da fa tutta giornata fino a scrisciut, Mara Luisa, quanta se d'aura. Mara Luisa, patrone in nutret, e è pazzi casri e ze frego a fet a casa nostra. Ancora c'è cudo un amore, ma continuo a pagare. Mara Luisa, quanta si dà. Zibaldone. Radio Contrabanda. Se n'è andata, posso lavorare. Posso guardarti negli occhi e mi sembra che adesso non puoi farmi del male. Ti porto in centro, andiamo per vetrine, hai il naso rosso come le bambine. E mentre guardi quella borsa di pelle ti riscaldi le mani nelle tasche. La nebbia se n'è andata ma non torna il sole. Dietro questo cielo bianco d'inverno nel silenzio delle scuole. Quando chiedi scusa poi sei troppo bella, non riesco a razionalizzare. Quando ti emozioni torni la mia stella, amore, vogliamo riprovare. Ma è quando avremo dei figli, faranno la guerra, la guerra. Accenderanno la stufa per la mamma più bella del mondo, senza fare nemmeno una pizza, li portiamo a mangiare la pizza, io e te. La nebbia se n'è andata, posso lavorare. Posso guardarti negli occhi e mi sembra che adesso non vuoi farmi del male. Andiamo al cinema, niente divano, questa serie inizia ad annoiare. E senza guanti che voglio sentire, nella tasca la tua mano. La nebbia se n'è andata, posso cominciare. Ma ancora è troppo freddo il pianoforte, sembra congelare. Sono uno straccio, stammi vicino, mi devi riscaldare. Che le canzoni di ghiaccio non fanno innamorare. Ed anche senza accenderanno la stufa, la donna più bella del mondo è più fortunato del cielo, che ne dici di una pizza stasera, io e te. Io e te, una delle canzoni contenute nel nuovo disco che esce proprio quest'oggi, Mi sono perso nel bosco, di Alessandro Fiori, un nome banzo importante della scena indie, ma potremmo dire anche cantautorale italiana. Beh sì, per la principale ragione che piace moltissimo a me. No, in realtà io sono un grandissimo estimatore di Alessandro Fiori, però la sto un po' buttando in cacciara, perché è comunque stato un membro, se non fondatore, comunque di importanza rilevantissima, dei Mariposa, che più che un gruppo sono un'esperienza, ecco, diciamo. E poi anche da solista ha mantenuto inalterate le caratteristiche di quella che potevamo intuire fosse la sua ispirazione, perché comunque i Mariposa erano un progetto più collettivo, ma diciamo che questa maniera di cantare un po' stralunata era estremamente distintiva, si è mantenuta anche nella produzione solista, caratterizzata da una vena se possibile ancora più surreale da quella, di quella di Mariposa. Sì, era da 6 anni tra l'altro che non uscivo con un nuovo album. Nel 2010 finì nella cinquina finalista per la Targa Tenco con l'album Questo Dolce Museo, già da solista dopo l'esperienza di Mariposa. Ha collaborato nel frattempo anche con tanti altri progetti musicali come Gli Scudetto, Gli Amore, i Craxi, e in questo disco, che è prodotto tra l'altro da Giovanni Ferrario, che ha lavorato con PJ Harvey o Rocchia Traoré e Alessandro Asso Stefana, insomma, dai più conosciuto come uno dei musicisti, dei chitarristi di Vinicio Capossela, ma che insomma l'avevamo intervistato anche per Zibaldone nel progetto Guano Padano, molto bello. Insomma, questo nuovo album di Alessandro Fiori era molto atteso. Vi avevamo proposto già un singolo che era uscito qualche tempo fa, Amami Meglio, e già insomma mese di marzo, e adesso proprio quest'oggi esce tutto il disco. Noi ce lo stiamo godendo e vi stiamo proponendo un'anteprima. Tra l'altro il secondo singolo del disco è la canzone che ci andiamo ad ascoltare proprio ora, che si intitola Una Sera, e che in realtà alcuni di voi l'avranno già ascoltata, perché Alessandro Fiori l'aveva proposta nel periodo del lockdown suonandola da casa, e invece ora ce l'andiamo a sentire arrangiata, completa, nella versione appunto contenuta in questo nuovo disco di Alessandro Fiori. Eccola qui. Una sera, tornando a casa a piedi, ripensavo alla nostra vita insieme e ridevo, stavo abbastanza bene. La nostra vita insieme era così. Una sera, salendo in ascensore, riguardavo quegli occhi nello specchio e ridevo, risate senza voce della nostra vita insieme. Io non sapevo niente, ho richiuso la porta dell'ingresso come un matto che accetta il suo mistero. Non capivo, con quelle luci spente, chi stesse decidendo la vita per noi due. Una notte, seduto in fondo al letto, mi toglievo la pioggia dalle spalle. Tu mi hai chiesto com'è che fosse andata, ma stavi già dormendo, dormivi da un bel po'. No, non ti svegliare, lascia stare, che è meglio così. Anche se sto male, io sto bene solo qui. Che a far l'artista per il tuo cuore mi sono garantito il pubblico migliore. Una sera, tornando a casa a piedi, ripensavo alla nostra vita insieme e ridevo, stavo proprio bene. La nostra vita insieme era così. Proprio bella questa canzone di Alessandro Fiori, Una Sera, contenuta nel suo nuovo disco che esce proprio quest'oggi. Banzo, forse un Alessandro Fiori un po' più classico rispetto a quello che conoscevamo. Sì, esatto. Ho aspettato l'ascolto del secondo brano per tracciare delle conclusioni provvisorie, però già dal primo ascolto dell'altro pezzo mi aveva dato una sensazione di maggiore classicità. Ecco, diciamo, manca un po' la stranezza sottile che era la cifra stilistica alla quale io personalmente ero più affezionato di Fiori, e anche una di quelle di quegli elementi che permetteva di identificarlo. Però, come primo ascolto, benché queste canzoni siano, diciamo, orientate maggiormente verso la classicità, mi sembrano comunque molto belle e avrei bisogno di un ascolto dell'album intero per esprimere un'opinione. Comunque, effettivamente non mi sembra si possa parlare di qualcosa di deludente, anzi al contrario, stavamo solo notando che effettivamente qualcosa è successo a livello di scrittura. Eh sì, è proprio così. Ma guarda, invece, per parlare di artisti che mantengono, per quanto trasformandosi, evolvendo, maturando, insomma, utilizzate il verbo che più vi piace, che mantengono però un punto invece più ironico, più istrionico anche, c'è Matteo Castellano. Ci andiamo ad ascoltare la prima canzone del suo nuovo disco e poi ne parliamo proprio insieme a lui. Vogliamo solo star tranquilli, Matteo Castellano. Son contento che ti fai le pere e non miri al suo sedere. Lei è bella da morire, sta con me, non devi interferire te. Vogliam solo star tranquilli, vogliam solo star tranquilli, vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli. Chiami e fai, accompagnami a Torino. Io dovevo tenere il bambino. La coscienza pungola un pochino. Se non vengo poi mi sento un cretino. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli, vogliam solo star tranquilli. Autostrada, parli a perdifiato. Pensi solo a cosa avrai comprato. Io rispondo finto preoccupato per non passare da sfigato. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo, vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo, vogliam solo star tranquilli. Arrivati sali un po' da noi, devi riportare l'auto ai tuoi. Insisto poco, tu dici vorrei, ma ognuno pensa solo a star con lei. Vogliam solo star tranquilli, vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli, vogliam solo star tranquilli. Quando uno vibra di poesia, io chiamerei la polizia. Portatelo via in psichiatria, dammi la chiave che la butto via. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo. Mio figlio è sveglio questa notte, la la mamma è stanca e gli dà botte. Apro un occhio, ma che me ne fotte. Vorrei salvarlo, ma il sonno mi inghiotte. Vogliam solo star tranquilli. Vogliam solo star tranquilli. Star tranquilli, vogliam solo star tranquilli, vogliam solo star tranquilli, vogliam solo star tranquilli, vogliam solo star tranquilli. E questa è Vogliamo solo star tranquilli, il primo singolo che vi proponiamo di Matteo Castellano, anche il primo singolo del suo nuovo disco uscito da pochissimo, lo scorso 15 aprile, Come un matto sano. E Matteo Castellano quest'oggi ci accompagna qui a Zibaldone. Matteo, innanzitutto un piacere averti con noi, benvenuto a Zibaldone a Radio Contrabanda. Grazie, grazie Steven. Un piacere mio, un piacere tutto mio. Un piacere ritrovarti a distanza e un piacere, Matteo, ascoltarti in questo nuovo disco che arriva dopo un po' di anni. Nel 2017 era uscito solo La Punta, nel 2011 Ezio, due dischi molto belli. Ezio, insomma, avevi fatto parlare molto di te con quel disco e finalmente, insomma, arriva un nuovo album, Come un matto sano. Raccontaci un po' innanzitutto, insomma, questo disco che tra l'altro ha una copertina bellissima. Grazie, grazie. La copertina l'ha fatta Alessandro Rivoira di RS, un grafico che immagino la spieghiamo ai nostri ascoltatori, perché c'è un uomo, un ragazzo dentro uno scatolone con una testa di cavallo, no? Sì, esatto, un cavallo ragazzo in uno scatolone. Esatto, si vede che è un ragazzo perché ha le scarpe tipo, cioè c'ha le Converse, da no? Tennis. Esatto. Cioè, esatto, c'ha le scarpe da tennis, come diceva Iannacci, porta le scarpe da tennis. E è molto bello, poi mi hanno detto che assomiglia a BoJack Horseman, che io non conoscevo, che è una serie cartone americano, ma molto bello, che ha delle cose in comune anche col disco, che parla di questo qua che è abbastanza disturbato e ossessivo, i rapporti personali che ha intorno con chi gli vuole bene sono disturbanti, insomma c'ha molti parecchi contatti col mio disco, però non ho ancora visto la serie, nonostante mi hanno detto. E ho fatto la copertina lo stesso nonostante mi avessero avvertito, guarda che poi ti dicono che assomiglia a quello, e io mentendo dico va bene, diremo che l'abbiamo fatta apposta, che è una citazione, in realtà è venuto così, spontaneo. Ascolta, parlaci un po' di questo disco, magari cominciamo anche dal singolo che ci siamo appena ascoltati. So che tu l'hai annunciato via Facebook in una presentazione che magari ha fatto preoccupare qualcuno. sì, l'hai letto. Ma sì, perché alla fine è un disco tutto di canzoni... Che ho scritto seguendo la tentazione, no? Tentazione magari di scavare dentro i tabù, come diceva Rino Gaetano, no? E, di dire delle verità che in genere vengono taciute, e quindi questa canzone va a scavare nei rapporti tra gli amici, che a volte non si dicono delle cose, o seguono delle dinamiche di vigliaccheria pur di non mettersi in gioco. In pratica è uno che è quasi contento che il suo amico si droghi, perché così non gli insidia la ragazza di cui è geloso. Per cui c'è questa gelosia, questo chiudere nella e viene un po' analizzato questa codardia dei soggetti. Ovviamente scrivendolo su Facebook è un po'... E poi ero lì che montavo il video da due settimane, per cui ero immedesimatissimo in me stesso nella canzone, quindi ho fatto un video un po' tipo aiuto, io sono così, ma non sono solo così come nella canzone, semplicemente ho voluto mettere in mostra quelle cose, quel negativo, anche per delinearmi un po' come personaggio, come autore. E ascolta, hai fatto bene a ricordare che c'è anche il videoclip, e quindi invitiamo anche i nostri ascoltatori a andarselo a vedere. Sì, sì. E, tra l'altro, anticipiamo subito una cosa: uscirà brevissimo un altro videoclip del secondo singolo dell'album. Bravissimo. Montagne. Esatto. Grazie, signore. Sì. Che noi manderemo. Manderemo oggi, in onda oggi praticamente. Ecco, esce proprio oggi che pubblichiamo. Esatto. E quindi insomma noi ne riparleremo anche di questa canzone, però prima ti volevo domandare quanto c'è di Matteo Castellano in questo tuo nuovo disco Come un matto sano. È 100% tutto, cioè sei tu il matto sano. Sono sei proprio tu. Io sì almeno mi sento anche così, poi mi sento anche una persona felice e risolta per certi aspetti, però sono io il geloso, sono io quello che ha l'eiaculazione precoce, sono io quello che è di famiglia ricca ma se ne vergogna, e allora si scrive tutta la storia di questa vergogna in una canzone. Sono io l'erotomane che quando esce guarda tutte le ragazze ossessivamente. Insomma, un disco molto interiore, no? Di quello che passa per la testa, ovviamente mettendo a fuoco il cosiddetto negativo, o almeno è così che lo sentivo scrivendolo. Poi magari lo ascolta un altro e dice: ma sì, dice due cazzate che un po' spinte, ma in confronto a un disco rap non è acqua fresca. Insomma, in ogni caso però, Matteo, ti spogli completamente davanti all'ascoltatore, mostri tutte le tue debolezze, sì, ma anche sì. I tuoi punti deboli, ma anche sempre c'è quella parte di ironia che ti contraddistingue. Beh, ti ringrazio, sì, a volte sì, ce l'ho, a volte. Beh, unisci un po', no, le due cose. E, ascolta, e un'altra cosa che ti volevo domandare è rispetto al Matteo Castellano di una decina d'anni fa, no? Quando sei uscito con Ezio, eccetera, cosa è cambiato? È cambiato qualcosa o in fin dei conti è lo stesso Matteo Castellano di 10-12 anni fa? No, appunto è cambiato, insomma, perché la voglia di spaccare e di emergere, di farsi ascoltare, è sempre tanta, però è diversa, cioè non è così fine a se stessa, ma è cazzo di, non lo so, di far qualcosa, nel senso di, cioè sarebbe bello andare in giro, vivere solo più di musica, proprio per farlo e per vivere un'avventura. Invece quello di Matteo di 10 anni fa era un po' un ragazzo che voleva spaccare e basta, insomma, in maniera un po' egoista, ma più che egoistica, un po' scema, un po' limitata. Ero un fissato rispetto adesso, anche se forse le canzoni erano in più belle, però boh, chissà. Beh, questo insomma, dai, questo sì, dipende sempre dall'ascoltatore. Ma ascolta, e invece una curiosità: quanto ha influito la pandemia, il lockdown nella scrittura di questo album? È stata fantastica, perché non potendo uscire, non potendo andare a fare schifo in giro, uno stava a casa, si concentrava e lavorava. È stato bello. No, la pandemia perché per me mi ha fatto ritrovare il gusto di fare i concerti, dalla privazione, il fatto di magari uscire tanto prima era un po' una routine o un obbligo che per socialità dovevo assolvere, e invece attraverso la privazione, mamma mia, appena c'è una cena tra amici o cosa, io c'ho una voglia di prendere la chitarra e suonare subito davanti a qualcuno. Ma questa è una bella notizia, questo è positivo. E ascolta, sì. e l'altra cosa, il disco è frutto di una bella collaborazione con Puso. Raccontaci un po', magari anche ai nostri ascoltatori, forse è bene accennare chi è Puso, che forse alcuni non lo conoscono. Ok, allora... Puso è cantautore come me, ma anche scrittore, umorista, e da primo produttore discografico e organizzatore di serate, insomma, un artista poliedrico. E io lo conoscevo come collega, no? Poi avendo invece fatto delle registrazioni per la compilation Morto dal Vivo, che sta uscendo, anzi addirittura è uscita, ho potuto apprezzarne le qualità, per cui io stavo registrando, poi un tipo super tranqui, veramente mi era già piaciuto come persona prima, no? Di saggiare le sue doti come arrangiatore e produttore. E allora poi quando cercavo un produttore, lo cercavo tra i produttori classici che hanno un nome così, e non trovavo niente. E a un certo punto ho detto, sai che c'è, io chiamo Puso perché mi interesserebbe lavorare con lui e conoscerlo meglio in generale. E poi è stato fortissimo perché mezz'ora dopo mi ha già mandato un pezzo con l'idea presa al 100%, proprio centrata, no? Ovviamente scritto alla veloce, così come un matto anche lui. Tra l'altro era proprio come un matto sano. Però aveva proprio centrato l'idea. Ed è stato molto, molto figo lavorare con lui perché le cose venivano fuori quasi per magia. Cioè, io in qualche modo ho delegato tantissimo a lui, ho detto, boh, il disco è anche suo, però facendo così è venuto molto come lo sognavo prima. Questa è una bella notizia. Questo anche perché lui è una persona che ascolta, intelligente, che ha messo anche lui subito dei paletti, no? Tipo, no, questo va fatto in click, non lo facciamo a 4:32 perché poi non possono suonare certi strumenti. La messa lui è di cose, quando lui c'ha un'idea si fa sentire, è proprio, però nonostante tutto me l'ha proprio cucito addosso bene, non lo so. Questo è bello, sono belle queste live. Sono belle queste collaborazioni, ecco. Ascolta, andiamo a ascoltarci una seconda canzone, Figlio di un milionario, l'ascoltiamo e poi dopo magari ci dici tu qualcosa al riguardo. Ok. I soldi di mio padre investiti in guerre lontane dureranno di più della stima che tu gentilmente mi mostri, e tornerai ai risolini vostri a cui vorrei accostare. Arriva il padrone, non fa colazione, non va a lavorare, vuole strimpellare. Son figlio di un milionario, non mi vergogno a dirlo, a cantarlo. Son figlio di chi son figlio, non posso cambiarlo. Là dalle stelle ho scelto due belle mammelle, chiamava la pelle, vogliamo un ribelle. Tutto pagato, dentista e avvocato, che parcelle! Sarai complessato, ma il culo è parato. Marachelle! Incarnarsi ore pasti tra gli ultimi semi rimasti. Sgomitarsi quanto basti e scavalcar gli arrivisti entusiasti. Tu scendi dal duodeno pieno di veleno e vivi la tua festa tirando il freno. Nella casa cameretta, Bob Dylan metteva fretta, il mondo t'aspetta. Ma uscendo di casa ero già una macchietta, nel Porsche di papà, Matteo Salvatore stonava, così come stona che io canti qua, ma va. È facile fare il cantante rampante, contento con tanto che poco il contante. È facile fare il geniale asociale, star male, che va all'ospedale, non sa quanto vale. È facile fare lo strano col grano, è facile fare le canzoni coi milioni, è facile fare il poeta, chi te lo vieta? È facile fare l'artista, oh, vuoi venire tu? Tu scendi dal tuo ceto e vai fra la gente. Chitarra sul collo, l'argomento è frollo, ma io non lo mollo. Non so che cantare, non so continuare. Canto perché faccio fatica a parlare. E mi sono incastrato in un ruolo sociale, l'emarginazione mi fa stare male, e la timidezza mi spinge a suonare, creare uno spazio in cui respirare. Guardare le femmine per parlare, quel che normalmente non so proprio fare. Il ricco realmente non so proprio fare, e non so lavorare, so appena sognare. Soldi di mio padre m'hanno reso un caso sociale, o lo ero già, fatto sta, che vorrei cambiare, ma come si fa, sento il tempo passare. Sempre uguale. Chiudiamo la canzone. Sei proprio un coglione. Parlar di denaro, tu canzonettaro. Son figlio d'un milionario, non mi vergogno a dirlo, a cantarlo. Son figlio di chi son figlio, non posso cambiarlo. E questa è Figlia di un milionario, la seconda canzone che vi proponiamo di Matteo Castellano, che ci sta accompagnando quest'oggi qui a Zibaldone su Radio Contrabanda. Matteo, questa è una canzone un po' particolare di questo disco, sì. perché è stata scritta molto prima in realtà delle altre canzoni. E ho avuto la tentazione di parlare di questo mio tabù già più di 10 anni fa. E mi ricordo che stavo andando a suonare in strada per pagarmi una bolletta e andandomi, quindi come aprì la custodia della chitarra e iniziai a cantare la strofa: son figlio di un milionario, non mi vergogno. E poi però non sapevo cosa continuare, non sapevo cosa dire di una cosa così, boh, in formazione da 7:30, perché in fondo sì, vabbè, c'ho i soldi, cosa hai detto? Non hai detto niente, non hai detto un cazzo. Quindi tirar fuori il tabù o la mia storia è venuta col tempo. E ci ho messo tanto tempo e poi ho capito che secondo me è una canzone abbastanza di rapportarsi con la società in generale, insomma. Ascolta, ti volevo fare una domanda che va al di là del tuo ultimo disco, però che ha a che fare un po' con l'ambiente musicale in cui tu sei nato, che è quello della Torino dei primi anni 2000, no? Dove si muovono tuttora molti cantautori, molti artisti che si muovono tra la canzone d'autore, il folk, per insomma mettergli delle etichette che valgono per quel che valgono. Penso per esempio a Vittorio Cane, a Dejan e l'Orso Glabro, a Paolo Rigotto, che tra l'altro ha fatto il mixaggio del tuo ultimo disco, e tantissimi altri, il master, esatto, e tantissimi altri artisti, anche Puso, esattamente, insomma, Mao, eccetera, insomma, com'è la situazione ora? Qual è la Torino degli anni 20 di questo millennio? Continua ad esserci questa vitalità? Le cose sono cambiate perché cambiano le generazioni, perché cambia la città? Qual è un po' la tua opinione al riguardo? Ma guarda, io a volte tendo a essere un po', insomma, poco informato, no? Con quello che succede, per cui non saprei dirti, forse 6 anni fa, vivendola proprio a pieno tutti i giorni, avrei potuto dirti il quadro della situazione. Però da quello che mi pare è che stia un po' riprendendo, che dopo il cambio di sindaco che aveva chiuso tanti locali, per esempio, e dopo la situazione pandemia iniziale che ha fatto una strage, certo, per noi musicisti, io penso che proprio come è successo a me, la voglia di suonare per il piacere di farlo e di socializzare, ma non dietro a un drink da 2 euro velenoso, riempi gente tipo manco fossero bestie al macello, no, davanti magari a un buon concerto in una situazione figa, cioè questa voglia venga fuori e che si stia riaprendo di brutto la città. Ho sentito qualche cosa, qualche posto, che ci sono anche posti che non hanno mai mollato, certo. grandi loro. E ascolta, e tu cosa ti porti dietro di quegli anni in cui hai cominciato a suonare in una Torino che era molto viva, molto vivace anche dal punto di vista artistico, degli incontri, dei locali? Cos'è alla fine, sono passati ormai degli anni, cos'è che ti porti dietro di quell'esperienza? Beh, di sicuro le amicizie con gli altri cantautori o con pubblico che poi sono diventati amici, e ovviamente è quello che resta. Ascolta, prima parlavamo anche di altre canzoni contenute nel disco, magari visto che esce proprio quest'oggi, vogliamo fare un piccolo spoiler del videoclip della canzone che è il secondo singolo, Montagne? Di Montagne, sì. Montagne, cosa devo dire? Tu l'hai ascoltata, sì. Io sì, i nostri ascoltatori però chi penso di no. Gli ascoltatori no, però insomma, sai di cosa parla? Io sì, però devi dirlo ai nostri ascoltatori, Matteo. E come devo dirlo io? Dillo tu. Mi vergogno. Vabbè, non credo, l'hai scritta e la canti. In ogni caso, insomma, io dico l'incipit, che vorresti vedere sparire le montagne che dal Piemonte arrivano fino alla Francia, e quindi poter, insomma, vedere il mare. Ecco, questo è l'incipit. Il mare, esatto, quello è l'incipit. Dopo lo devo dire io. Eh sì. Ma senti un po', ma non saprei come introdurla. Diciamo che la canzone, cioè come introdurla saprei, ma non saprei forse rimanere a lungo dopo che l'ho introdotta. Insomma, è una canzone che dura 7 minuti. Diciamo che dura anche più di me, durando 7 minuti. È una canzone che ha l'argomento che più breve dello svolgimento, insomma. Non so. Allora, io credo che con questo già alcuni ascoltatori avranno capito, e poi visto che esce il videoclip proprio a brevissimo, proprio tra poche ore, insomma a questo punto direi che li invitiamo tutti ad andare a cercare il videoclip, che si trova facilmente su YouTube e dai tuoi canali social, e quindi andarselo a vedere e ascoltarsi la canzone. Che ne dici? È grandioso. È grandioso. Ascolta. Montagne, son venuto subito. Eccolo lì. Ascolta, ecco. E invece noi ci salutiamo con un ultimo brano, che è proprio quello che dà il titolo all'album. Mi piacerebbe che in questo caso, come un matto sano, che ce lo introducessi tu. Ok. È come un matto sano. Come un matto sano è un altro. Fa parte di è forse il la canzone che più ha dato il la, che racchiude un po' tutte le altre, no? Un po' più in generale, ma con più rabbia. Rabbia di che la vita a volte sia senza pazzia, no? E rimanga pazzia nel senso ovviamente liberatorio e buono, e che rimanga solo lo scheletro, no? La scaletta delle cose da fare, la macchina che va avanti, e tu ti trovi in questa macchina senza uscita, no? Quindi totalmente come un matto, come automatizzato, e a volte si soffre di questa Situazione, sì. Ascolta, noi ce la diamo questa mancanza di ciccia. Noi adesso ce la andiamo a sentire, ci salutiamo. E allora si sta come un matto sano in quel caso, ed è uno sfogo questa canzone. Noi ce la andiamo a sentire adesso per salutarci, e ricordo anche ai tuoi ascoltatori che tu prossimamente sarai in giro a suonare, a presentare questo disco, quindi insomma di andare a dare un'occhiata alle tue pagine sui social, pagina Facebook, esatto, eccetera, perché li informi un po' su tutti i concerti che farai, soprattutto in giro per il Piemonte. Piemonte e Liguria, perché per questioni lavorative sono legato... mi sono avvitato qua. Ti sei avvitato lì. Per un bel po' avvitato. Ascolta Matteo, ti ringrazio davvero di essere stato con noi, complimenti per questo tuo disco, e andiamo grazie ad ascoltarci. Te, grazie davvero. Andiamo ad ascoltarci questa canzone, come un matto sano. Un abbraccio, ciao Matteo. Un abbraccio, ciao a tutti. Pazzia, vita mia, tutti ti dicono stronzo per le cazzate che fai, da sbronzo poi da lucido non ci pensi mai, a dove vai? Senza un briciolo di pazzia, vita mia, puoi giocare a schiaffi, fare mille imprese, ma senza quella voglia di restare assieme, oltre la paura di tornare a casa da chi possiedi o ti possiede. Lo come sai, stai come un matto sano. Lo come sai, stai come un matto sano. Tu. senza un briciolo di pazzia. Paura e pudore la via. È così logico, tutto benissimo, tirata lucido e pulitissimo. Com'è che poi tradisci la tua donna con un maschio con la gonna che ti fa bruciare il culo? Papà che ti tira via dai guai, ma i problemi che tu crei li risolverebbe mai. Ma la vera sfida è la prevenzione. Macron cambia strategia e col suo tour elettorale tocca le zone più povere del paese, con il volto coperto da una maschera antigas. Sempre più le coppie VIP che scelgono di comunicare la fine del loro amore alla Le Pen. Lei replica: il mio programma non è radicale. Il nostro scopo principale è liberare il Donbass, in 3 minuti soffiando in una cannuccia. Soddisfazione di Lega e Forza Italia dopo il confronto con Dio, che si sente improvvisamente minacciato. Non mi aspettavo un'aggressione. Berlusconi: sono una vera e propria meraviglia della natura. Salvini invoca con forza la cessione del nostro paese ad un fondo del Bahrain, ma la casa non si tocca. Putin ridefinisce gli obiettivi russi e annuncia grandissima attenzione a una donna russa e una ucraina insieme. Ma la vera sfida è l'emergenza baby gang a Roma, Firenze e Napoli. Si tratta di pericoloso terrorismo. Poi il Cremlino minimizza: solo 9 ragazzi su 10 rimarranno uccisi. Zelensky ribadisce: abbiamo bisogno di più armi. Pane, pasta e delfini sono una vera e propria meraviglia della natura e sono in pericolo per l'adesione alla NATO. Senza risultati l'incontro con Renzi è inutile, non la voteremo mai. Draghi annuncia una risposta significativa alla dipendenza dalla Russia. Un ciao ritrovato dai carabinieri di Civitavecchia. Ci svincolerà da circa un terzo delle attuali importazioni da Mosca e farà tutto il necessario, perfino portare a spasso il cane. Ma la vera super sfida è accenderlo. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che strapparla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Siamo qui ancora una volta. Siamo sicuri che adesso si svolta. C'è il bando che strapparla fuori onda. Occhio che il capo s'arrabbia. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. Radio Contrabanda, siamo in onda. Steven fa la domanda. La domanda la faccio sì e la faccio proprio a te, caro Banzo, perché insomma sono tornate anche le ultimissime, come è tornato quest'oggi, questo venerdì Zibaldone, ultimissime che ci mostrano come sempre un, insomma, una visione un po' diversa della realtà rispetto a quella che ascoltiamo sui mass media. Io comincerei subito con un, vorrei una battuta telegrafica tua riguardo al ciao trovato a Civitavecchia. Io prima ancora di parlare del ciao vorrei dire che le ultimissime mie erano mancate. Ecco, questo ciao trovato a Civitavecchia che dovrebbe permetterci misteriosamente, grazie ai carabinieri che lo hanno ritrovato appunto, di dipendere meno dalle importazioni energetiche della Russia, cioè dalle risorse energetiche della Russia, sempre che, non ho capito bene come. Sempre che si accenda, ecco. Esatto, questo è un problema che si aggiunge ai problemi, perché non ho capito in che modo un motorino da solo può fare tutto questo, perché si parla di un terzo del fabbisogno, deve avere un serbatoio molto capiente però. Ascolta, ma il vertice tra Dio e Forza Italia e la Lega? Ma mi sembrano tre mitomani, ecco. Forse Dio è il meno mitomane dei tre. Ecco, sì, è molto probabile, è molto probabile. Banzo, altro da aggiungere su queste ultimissime? Che c'è il rischio che spariscano pane, pasta e delfini, non ho capito se solo dall'Ucraina o in generale, per via della paventata adesione alla NATO, che comunque credo che a questo punto non si verificherà per ovvie ragioni, che insomma non è necessario sottolineare, però stai dimenticando, forse perché è stato più verso l'inizio delle ultimissime, due notizie molto importanti. Una si ricollega direttamente all'Ucraina, cioè è il piano della Le Pen per liberare il Donbass con una cannuccia in tre minuti, soffiandoci dentro, che probabilmente si tratta più di un esempio di prestidigitizzazione che di una strategia politica, perché non saprei dire. Sicuramente. E poi c'è questo post-apocalittico e anche un po' crust punk Macron in tour per il paese con la Francia, ovviamente, con la maschera antigas. È un'immagine bellissima, io la chiuderei qui. Sì, chiudiamo qui e passiamo a un altro brano, perché ci stiamo avvicinando alla fine di queste due ore di Zibaldone. Andiamo ad ascoltarci questa nuova canzone, Hai mai visto, di un bravissimo artista. Non vi dico chi è, ve lo dico dopo. Sentitevela, perché tra l'altro è dedicata proprio alla guerra in Ucraina e alla raccolta fondi di Emergency. Hai mai visto un gatto diventare un ratto, partorire un topo che somiglia a un cuoco? Hai mai visto un gufo praticamente stufo diventare un gallo e sposarsi col cavallo? Hai mai preso le stelle come caramelle? Se provi a mangiarle risplende anche la pelle. Hai mai visto il cielo diventare il mare, pesci su a volare, uccelli giù a navigare? Hai mai visto il bianco diventare nero? Hai mai visto te diventare? Come caramelle, se provi a mangiarle risplende anche la pelle. Hai mai visto il bianco diventare nero? Hai mai visto te diventare me. E questa canzone, Hai mai visto, è di Gennà Romano, che noi seguiamo da tempo qui su Zibaldone, musicista, membro dei Letti Sfatti, ma che in realtà ha tante collaborazioni come musicista, compositore, produttore con tanti artisti, insomma, da Tony Esposito a Franco Del Prete, James Senese, con Harry De Luca ha scritto una canzone, anche un libro, Questa città, poi anche ha collaborato con Fausto Mesolella o Patrizio Trampetti, grandi musicisti, grandi cantautori della scena soprattutto napoletana. E questo brano, Banzo, è interessante perché è parte di una campagna di Emergency intitolata Emergenza Ucraina, che potete insomma conoscere, potete aiutare, collaborare visitando il sito di Emergency e consultando appunto questo programma per assistere le vittime della guerra in Ucraina. Quindi ricordatevi Emergency, Emergenza Ucraina, e questa canzone di Gennà Romano, Hai mai visto, appoggia appunto questa campagna. Beh, una cosa che ovviamente è quasi banale dirlo, però seguendo la musica da appassionato molto da vicino, effettivamente non si può fare a meno di notare il profluvio di album benefici o iniziative benefiche proposte da musicisti per aiutare insomma le vittime di questa guerra. È curioso perché, facendo per esempio una riflessione personale, è stato un periodo immediatamente successivo all'inizio dell'offensiva nel quale le notifiche di Bandcamp mi proponevano dei benefit veramente a tambur battuto. E diciamo che in questo caso, anche se a volte ero un po' perplesso, forse la solidarietà non è veramente mai troppa, ed è comunque bello che si cerchi, dalla posizione del musicista che decisamente non prende in mano le armi, insomma, la musica serve a unire e non a dividere, cercare di fare qualcosa in questo modo, anche perché insomma il rumore della guerra lo conosciamo, anche se per fortuna l'abbiamo mai vissuto. Invece la musica serve ad altro, serve a metterci in comunicazione con noi stessi, ecco. Effettivamente, effettivamente. E noi ora andiamo a ascoltarci, visto che, lo ricordo, il tema di questa puntata è le canzoni di ieri, le canzoni di ieri e le canzoni di oggi, ad ascoltarci una canzone di parecchi anni fa. Insomma, abbiamo cominciato con Nick Drake e Enzo Del Re nei primi anni 70, ora lo facciamo insomma invece andando ancora un po' più indietro, nel 1968. Ho visto Un Re, la voce che insomma ricorderete di questa canzone era quella di Enzo Iannacci, testo però scritto dal grande Dario Fo, e ce l'andiamo a sentire per una versione molto più recente, quella dei Barlafus, un trio novarese formato da Marco, il cantastorie, alla fisarmonica, Simone, il cantamimo, e Jimmy, il cantamusico, alla chitarra, che sono nati nel 2015, hanno suonato tantissimo in giro, soprattutto tra Novara, Milano, in osterie, case di riposo, feste patronali, piccoli teatri, come raccontano anche loro, e finalmente l'anno scorso, partendo da un repertorio che è un po' quello della grande tradizione cabarettistica e musicale milanese, i Gufi, insomma Brivio, Patruno, Svampa, ma anche il già citato Iannacci o Giorgio Gaber, sono usciti con il loro primo disco, e in questo disco è contenuta anche appunto questa versione di Ho visto un re. Loro sono i Barlafus, eccola qui. Dai dai sì, ho visto un re. Sarà vi scuse? Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime, ma tante che bagnava anche il cavallo. Povero re e povero anche il cavallo. Dai dai dai, è l'imperatore che gli ha portato via un bel castello. Uè, che balos. Di 32 che lui ce n'ha. Povero re e povero anche il cavallo. Dai sì. Poi ho visto un ve. Sarà vi scuse? Ho visto un vescovo. Dai, e anche lui, e lui, e lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche la mano. La mano di chi? Ma la mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacristano. Beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh. Ma le successe cos'è? Cosa? È il cardinale che gli ha portato via un'abbazia, oh, per Cristo, di 32 che lui ce n'ha. Povero vescovo. E povero anche il sacristano. Sì, beh, ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì, beh. Ho visto un ric. Ce l'ha visto cos'è? Ho visto un ricco. Un sure? Sì. Ah, ah, beh, sì, beh, dai, beh, dai, quinta su. Ah, beh, sì, beh. E il tapino lacrimava su un calice di vino. Ed ogni goccia andava derinta al vino. Sì, che tutto l'annacquava. Povero tapino. E povero anche il vin. Ah, beh, sì, beh. Ah, beh, sì, beh. E il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cenna. Povero tapin. E povero anche il vin. Ah, beh, sì, beh. Ah, beh, sì, beh. Ho visto un vilan. Cos'è il vilan? L'hai visto solo tu? Cos'è? Il vilan? Ma dai, un contadino! Ah, beh, sì, beh, ah, beh, scusa, sì, il vilan? Ah, beh, sì, beh. È il vescovo, il re, il ricco, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato, gli han portato via tutto. La casa, il cascinale, la mucca, il latte della mucca, il violino, il giradischi con i dischi di Orietta Berti. La moglie! Per cos'è? Un figlio militare! Ah, beh, sì, beh! Gli hanno ammazzato anche il maiale! Povero Purcell! Nel senso del maiale! Ah, beh, sì, beh! Ah, beh, sì, beh! Ma lui no, e lui non piangeva! Anzi, ridacchiava! Ridacchiava come un matto! Ma sarei matto! Ma no! No! Il fatto è che noi vilan, che noi vilan, e sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiam. E sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiam. Ave! E loro sono i Barlafus. Ho visto un re, una serata da Barlafus è il titolo del loro primo disco uscito nel 2021. Banzo, noi siamo arrivati davvero alla fine di questa puntata di Zibaldone, ci resta giusto il tempo per l'ultimo trago che io so che è di un artista che a te piace, o sbaglio? Io comunque volevo sottolineare una differenza importantissima, Steven, rispetto alla versione originale di Enzo Iannacci, che è che i dischi di Little Tony sono stati sostituiti da dischi di Orietta Berti. Bravo, hai fatto questo, bene. Scusa, ma dovevo dirlo, Hai fatto bene. Un po' contro il naturale ordine delle cose, ma adesso sì, io sono un fan dei Diaframma, che andiamo a sentirci adesso. Eh sì, noi ci salutiamo proprio con una canzone di Diaframma, un nuovo singolo appena uscito, freschissimo, Coperte tumorali, insomma, Federico Fiumani, Diaframma, una band storica della scena rock italiana, ce lo godiamo e noi ci ritroviamo questa volta sì venerdì prossimo dalle 18 alle 20 qui su Radio Contrabbanda. Zibaldone tutti i venerdì dalle 18 alle 20. Banzo, grazie di essere stato con noi, ci ritroviamo la settimana prossima. Grazie a te Steven, a presto, e questa volta non per modo di dire. Esattamente, e allora godetevi Diaframma, però prima vale la pena ripetere quello che era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, che alle 19.55 ripeteva tutti i venerdì siamo tornati! Sì, lo diceva anche lui, dopo aver vinto le elezioni. Ciao Banzo, ciao a tutti, godetevi il diaframma, fate l'amore con il sapore e buon venerdì sera. Coglione.